Anna non abita più qui, Laura se n'è andata via, Valerio non lo sento più, ci siamo persi un po' per colpa mia. Ciao e uno se ne va per sempre, se ne va per sempre. La notte tanto cade giù e io ti cerco inutilmente, sento che mi cerchi anche tu da un'altra parte in mezzo ad altra gente. Intanto piove che non smette mai ed io ti ho perso veramente. Maria, dentro un'altra realtà, forse in casa mia, don't touch me, oppure in questa città, don't touch me, da buttare via, don't. Spengo il mio computer e cerco un po' d'aria, vado sul balcone, il mondo è acceso, sembra un videogame, nelle città miliardi di persone. Ma i sogni non finiscono mai, ed io ho sognato di trovarti tra gli aeroporti e le stazioni. Io proverò a cercarti tra gente muta e le canzoni. Verrò a recuperarti, e se i sogni non finiscono mai, finito di sognare. Maria, dentro un'altra realtà, don't touch me, o forse a casa mia, don't touch me, oppure in questa città, don't touch me, da buttare via, don't touch me, sotto cieli lontani, don't touch me, senza nostalgia, don't touch me, Maria, don't touch me, Maria. Maria, Laura se n'è andata via, Valerio non lo sento più, ci siamo persi, ci siamo persi, ci siamo persi. Dentro un'altra realtà, don't touch me, forse in casa mia, don't touch me, pure in questa città,